Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Buona giornata a voi, vi stavamo aspettando. Accomodatevi nel salotto di questa casa che non è un albergo, seduto già qua accanto a me il mio coinquilino Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Una puntata ricca quella di oggi. Di temi e di ospiti. Allora iniziamo subito con il primo tema e lo introduciamo con un breve estratto da un libro che ci ha molto colpito. Per quanto perfetta, per quanto piena di ottimi voti, la matrigna non potrà mai paragonarsi alla madre. Non contano sforzi o fatiche, semplicemente non può. È una cosa diversa, è una natura diversa. Non si discute neanche se una sia più buona dell'altra. Ognuno è quello che è. È inutile provare a truccarsi. Ognuno è fatto come è fatto. Se accettassimo questo, vivremmo tutti un po' meglio. Sfido tutte le accuse di passività, di rassegnazione. Ma guardare il reale e prenderne atto non è cosa da poco e semplifica molto. Così è bene che la nostra matrigna ogni tanto si fermi e pensi un momento a quello che sta facendo e perché. Se è vero amore per gli altri o se si agita tanto solo per sé, perché le dicano brava, per fare una bella figura. E se il motivo è quello, povera matrigna, è meglio che vada in campagna. Alberto, oggi parliamo di matrigne. Ne abbiamo due in studio e te le introduco, te le presento. La prima è Lilia Bonomi, che tra l'altro è autrice proprio del libro da cui abbiamo estratto il brano che abbiamo ascoltato. Il libro si chiama Matrigne, manuale di sopravvivenza per madri di seconda scelta, Ancora Editore. Buongiorno Lilia. Buongiorno a voi. Con noi c'è anche Rossella Calabrò, autrice con uno pseudonimo, di il nome è Orsella Neman, di Uova di Matrigna e fondatrice tra l'altro del primo club italiano delle matrigne. Buongiorno Rossella. Buongiorno a voi, grazie. Intanto chiediamo a voi, ma realmente chi è la matrigna? La matrigna è una donna che ha a che fare con dei figli non suoi, avendo sposato il padre, nonostante la madre naturale sia viva. Una volta la matrigna era quella che appunto subentrava alla madre morta, così dice ancora il dizionario, e invece oggi con le famiglie allargate noi ci troviamo ad avere dei figli non nostri, mentre la madre naturale è ben viva e vive di solito anche con i ragazzi. Diciamo che è un'appassionata del vintage, perché sposa un marito usato. Esatto. E che non lo riprende più indietro nessuno. Assolutamente. Ma le matrigne sono quanto sono diverse dalle matrigne descritte nelle favole? Molto diverse, diremmo noi. Vabbè, sì. Noi siamo matrigne, voi quindi siete chiaramente di parte. Noi siamo di parte. La faccia delle matrigne non ce l'hanno. Grazie. Grazie. Avete fatto qualche cosa? Beh, certo. Beh, la mia figliastra più piccola, quando mi presenta le sue amiche, dice: questa è la mia matrigna, però è buona. Cioè, regolarmente non riesce a dire soltanto questa è la mia matrigna, deve correggere immediatamente il tiro. Anni di questa... Quando diceva queste cose, adesso pensa tutt'altro perché ha 13 anni e mezzo, però 7, 8 anni, 9, tutte le volte diceva questa Quindi, cosa. Quindi per rassicurare un po' le amiche. Sì, assolutamente sì. E invece di lei cosa dicono? Di me pare che parlino molto bene, nel senso che mi sembra che siano molto contenti quando parlano di me, dicono che sono brava, che sono gentile, che sono carina con loro. Anzi, io ho detto che avevo scritto questo libro, le ho invitate a raccontarlo anche a loro amiche, a zie che so che sono matrigne, e loro mi hanno detto: Lilia, ma guarda che quella lì non è una matrigna come te, quella lì è cattiva, ai suoi figliastri non gli regala mai niente, gli dà tutte le cose brutte, ma non è come te, invece tu sei diversa. E quindi ho visto ma un po'. Immagino che per arrivare a questo grado di accettazione la matrigna si sia dovuta tirare su le maniche. Sì, e è quindi molto vincere. Faticoso. Immagino. Qual è la fatica che hai incontrato subito come impatto, Lilia? Allora, la fatica maggiore è stato prima di tutto superare le riserve di mio marito, il quale ha aspettato tanto prima di farmi entrare in questa familiarità con i suoi figli. Vabbè, Non capisco. Perché appunto era molto preoccupato di presentare un'altra donna che poi eventualmente non dovesse continuare ad avere un rapporto stabile con i ragazzi. Quindi i primi 2 anni, dove non eravamo ancora sposati, convivevamo, io li passavo il sabato e la domenica a piangere, mentre mio marito portava da sua mamma, dalla nonna, i suoi figli per poterli vedere senza dover passare attraverso di me. Quindi io attendevo questi ragazzi, speravo di vederli. Nel contempo, dall'altra parte, loro sapevano in qualche modo che esistevo e avevano fatto delle fantasie. Quindi mi pensavano brutta, cattiva, che rubava tutti i soldi. Sì. Questo mi hanno detto la prima volta che sono venuti a trovarmi, dicendomi che secondo loro forse potevo anche non essere così. Ecco, subito. Ti mettevano alla prova. Sì. Rossella, invece? Ma io ho passato i primi 2 anni praticamente chiuso in bagno a piangere, devo dire sinceramente, per motivi un po' diversi, perché appunto io e Lilia siamo assolutamente speculari, questa cosa ci fa molto ridere. Io non ho figli e non ne ho voluti, poi evidentemente per motivi di karma me ne sono trovati un mezzo etto fatti da altre donne, di cose di cui sono felice. All'inizio io ero molto gelosa, cioè non ho problemi, non ho vergogna a dirlo. Mi fa piacere, perché immagino che questo sia un sentimento assolutamente... È legittimo, cioè sì. È brutto, è meschino, è miserabile, anche per una matrigna, cioè io avevo 40 anni quando ho cominciato a fare la matrigna, ero grande, non avrei dovuto permettermi di essere gelosa, in realtà ero gelosa. Di questo parleremo con Alberto, perché ho visto già subito nei suoi occhi un guizzo, perché Alberto dirà un'emozione che viene riconosciuta è un'emozione metabolizzata. Giusto, Alberto? Per ogni genitore, madre, matrigna, padre o patrigno, il percorso per la piena accettazione proprio del proprio ruolo genitoriale passa attraverso fasi, stadi, emozioni che devono essere riconosciute ed elaborate. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati veloci perché qua in studio abbiamo 2 matrigne con cui vogliamo parlare, discutere, conoscerle più da vicino e le mettiamo anche un po' alla prova, Alberto. Abbiamo una lettera scritta da una nostra ascoltatrice che chiede proprio un aiuto e noi le diamo un aiuto collettivo, come sempre. Adesso andiamo a sentirla. Ho sposato Marco, che era alle sue seconde nozze. Quasi tutti i fine settimana da noi vengono i suoi 3 figli, che sono quasi in adolescenza. All'inizio è stata dura. Credo di essere stata pensata come la ladra del loro papà e probabilmente nei loro pensieri ero la matrigna come quella che c'è nelle favole. Ho sempre provato ad aiutare Marco ad essere il miglior padre possibile. Non ho cercato di sostituirmi a nessuno, perché so che nella loro vita sono arrivata per seconda e non ha nessun senso pensare di avere il diritto di essere la prima e l'unica, cioè ciò che non sono. Ora sono colpita nel constatare che in questi 3 anni i miei figliastri hanno piano piano imparato ad affezionarsi a me. Mi cercano, mi chiedono cose, provano a risolvere alcuni loro dubbi con me. Non sono solo un'amica per loro, credo di essere diventata proprio una figura di riferimento. Ogni tanto mi trovo a sognare di poterli coccolare. Vorrei anche scambiare con loro gesti di vicinanza e non solo parole, che adesso ormai ci vengono facili. Ma è come se quel passaggio legato al contatto fisico, all'abbraccio, alla carezza, mi fosse precluso. E io ne ho una tremenda nostalgia. Mi chiedo se tutto ciò sia normale. Non so darmi una risposta. Voi lo sapete fare? Tutto ciò è normale? Lo chiedo a voi, matrigne. Anche voi vi siete in qualche modo trovate nella situazione descritta dalla nostra ascoltatrice, Lilia. Io trovo molto normale questa situazione, anche perché questa persona che ha scritto questa lettera parla di ragazzi che sono arrivati a contatto con lei che erano già quasi adolescenti, quindi dobbiamo considerare che il modo affettivo di comportarsi con un adolescente già anche con i genitori cambia, quindi a maggior ragione con un'altra figura di riferimento come può essere la matrigna. Io ho avuto più o meno la stessa esperienza perché sono matrigna da 10 anni, adesso i miei figliastri sono 2 gemelle di 22 anni e il maschio di 24, per cui pensate 10 anni fa avevano 12 e 14 anni. Quindi era già molto difficile creare un contatto anche affettivo, anche fisico, anche di coccole. È vero che la matrigna ha questo grande desiderio, ma la prima cosa è rispettare i ragazzi per come sono e quindi gli adolescenti hanno le loro ritrosie e le loro forme diverse di manifestare l'affetto che non sono l'espressione della coccola del bambino, anche se a noi piacerebbe. Ecco, io ho avuto un'esperienza speculare completamente diversa. Sono stata in realtà assalita dalle mie figliastre, lo dico con molta simpatia. Mi hanno pastrugnato, mi hanno coccolato, forse perché sono femmine, forse perché erano più piccole all'epoca, ma io anch'io comunque sono una persona abbastanza affettiva, eccetera, per cui abbiamo passato ore e ore a grattarci la testa come le scimmie, a spulciarci, a fare queste cose con molta facilità. La cosa invece che volevo dire sulla lettera che abbiamo appena sentito, sul discorso non sono la prima ma la seconda. Su questo aspetto volevo infatti chiedere il vostro aiuto e un commento di Alberto. Sentirsi sempre la seconda, sentirsi sempre un po' in competizione, perché gioco forza, i bambini un confronto lo fanno. Che risultato ha? Vi blocca? Quali strategie vi suggerisce? Com'è andata con voi? Guarda, io quando ho capito che ero, chiaramente anch'io facevo, sono la prima, sono la seconda, tutte queste graduatorie, eccetera, mi facevo il mio bel gioco della torre, per cui chi viene buttata giù per prima, eccetera. Quando ho capito e ho interiorizzato che ero io quella che veniva buttata giù per prima, ed era giusto, perché era fisiologico, biologico, perché i bambini sono più giovani, hanno più possibilità di vita, quindi è giusto che la matrigna venga buttata giù per prima. La madre viene buttata giù dopo, perché comunque è la madre di questi bambini. Quando interiorizzi questa cosa e quasi ne sei contenta, questo è un traguardo per cui vogliono anni, è tutto molto più facile. Alberto, abbiamo bisogno di te, della tua... Devo dire che leggendo a fondo i libri delle nostre autrici si vede che effettivamente questo è un percorso, quello della matrigna, molto in salita, dove devi trovare un equilibrio che non esiste in partenza, forse non esiste nemmeno al traguardo, però è una conquista gradino dopo gradino. C'è una frase molto bella in questa mail che ho ritrovato nel libro di Lilia Bonomi che dice: forse il nostro ruolo è quello di aiutare il padre di questi figli ad essere il miglior padre possibile, che secondo me rimette proprio tutti nella giusta posizione. Cioè, io sono la compagna di un uomo che ha dei figli, questi figli hanno un'altra madre, io sono per loro un adulto di riferimento, sì. Non posso non esserlo, e a questo punto non entro più in un gioco di competizione, di gara, ma in qualche modo mi rendo accessibile, mi rendo disponibile, sono responsabile, mi rendo accogliente. C'è questo passaggio molto bello di nuovo nei libri legato all'importanza del saper offrire proprio buon cibo, dell'essere in cucina disponibile per i loro desideri, che se vuoi è proprio l'aspetto materno e dell'accudimento, ma è un gesto anche di grande cura che non può non essere notato quando entri in una casa dove apparentemente sei il figlio di un genitore e l'ospite dell'altro. Ma chiediamo a Lilia che cosa... Ma io voglio dire che in questo libro che io ho scritto, che mi è servito un po' come traccia per questo percorso che ho dovuto fare sulla mia pelle, anche perché prima di questi libri, lo diciamo con un certo orgoglio mio e di Rossella, non c'è letteratura su questo argomento, quindi abbiamo dovuto organizzarci da soli. In questo libro ci sono tanti buoni sentimenti e tanta buona volontà, diciamo, tanti buoni propositi. Ecco, non è sempre così facile realizzarli tutti, nel senso che questa competizione la matrigna la sente sempre, e anche quando la riconosce non l'abbandona mai, perché comunque viene per seconda e questo fatto rimane. È vero che va considerato profondamente, però in qualche modo dentro rimane sempre questo dolore, perché in qualche modo comunque i figliastri sono la testimonianza del matrimonio precedente, certo, dell'esperienza precedente del marito. Volevo, scusa, chiedere Alberto a te, stiamo parlando delle matrigne, ne abbiamo due, giustamente parliamo di loro, delle loro fatiche, dei loro percorsi, della loro trasformazione. Penso quanto sia difficile, quanto sia faticoso invece per un figlio, per un ragazzino, sia piccolo che adolescente, accettare questa nuova figura di donna accanto al padre e quindi relazionarsi. Alberto. È molto difficile e diventa tanto più facile quanto più è davvero intelligente e competente in termini emotivi questa nuova compagna di papà, e questo significa di nuovo saper tenere proprio il proprio posto, sapere chi sei, che cosa ci fai nella loro vita e intuire un po' anche quello che potresti diventare. Ci sono moltissimi racconti di famiglie ricomposte, di famiglie che diventano addirittura famiglie allargate, dove la nuova compagna può anche creare proprio un'alleanza educativa, un progetto educativo con la mamma di questi figli. È un po' una cosa da film, Alberto, non so se poi nella realtà le cose siano. Rossella, io volevo chiedere, cioè, sicuramente cambia la situazione, la posizione di una matrigna, mi spiace chiamarvi così, però non c'è un altro termine, no, vero? Stiamo mamme di seconda, ecco. Anche in questo siamo un po' in disaccordo, però. Va bene, sì, ma sì, io come devo chiamarvi? Vi chiamo matrigna. Matrigna va benissimo. Vabbè. Dicevo, molto fa la differenza sicuramente se il vostro compagno è in buoni rapporti o in cattivi rapporti con la prima moglie. Sì. Diciamo, sì, posso è dire, vero. Secondo me, un'altra variabile che probabilmente fa la differenza è quanto i due genitori che si sono separati hanno saputo ricostruirsi un equilibrio affettivo, perché a quel punto riescono a conquistarsi una libertà proprio sentimentale che diventa anche emotiva e riescono davvero a... Certo, però c'è sempre uno dei due che inizia per primo, poi magari tutte e due trovano il loro compagno, tutti si vogliono bene, facciamo la famigliona da film, oppure magari una rimane senza compagno, capita, perché molto... adesso poi ci sarebbe una teoria, ma è più difficile per una donna con figli trovare un patrigno, di solito le matrigne sono più generose, accolgono, ma comunque questo magari sarebbe da indicare. Da indagare, Rossella, come ti ha influenzato il rapporto che il tuo compagno ha o aveva con sua moglie? E magari proprio perché gestisci il club delle matrigne, cosa ti raccontano anche le altre matrigne quando le incontri? Intanto sono stata, diciamo, avvantaggiata paradossalmente dal fatto di avere due ex mogli, per cui tutto sommato si diluisce un po' l'attenzione di mio marito. Certo che è un tipo strano. È bizzarro, però. È vivace, sì sì, è un ragazzo vivace. Crede nel matrimonio fondamentalmente, per cui lui le sposa tutte, poi va. Comunque, e il Club delle Matrigne nasce apposta per un po' per il discorso che facevamo prima del ruolo, perché veramente, come diceva Lilia, questo ruolo non è trattato se non appunto con Cenerentola, con la matrigna di Cenerentola, eccetera, per avere un'identità e per chiarircela tra di noi, perché ci chiamano terzo genitore. Io per esempio non sono d'accordo su questa definizione, perché non siamo, personalmente, non siamo genitori. Poi scusami, ma la matrigna di Cenerentola aveva due figlie. Peraltro sì, Anastasia e Genoveva, come dimenticarsele, e il gatto Lucifero. Certo, tra l'altro c'è anche una grossa differenza tra matrigne con figli e matrigne senza. Certo. Io sono una matrigna pessima perché non ho neanche figli miei e mi ricordo che mi ha fatto malissimo quando ho sentito che qualcuno aveva detto: ma quella lì non ha figli, come può essere capace di educare? Cosa che invece si è dimostrata con mia grande gioia e un po' di pelle d'oca sul braccio, ma assolutamente falsa, nel senso che io queste ragazze le amo perdutamente, loro anche mi cercano, abbiamo un rapporto autonomo, ci vediamo anche per i fatti nostri, cosa importante, cioè non passiamo necessariamente dal papà. Cioè, mi sembra questa una buona cosa. Perché vuol dire che è una scelta, cioè se loro mi chiamano non è perché vabbè tocca vedere Rossella perché è la tipa del papà, ma voglio vederla perché voglio andare a comprarmi gli orecchini con lei. È chiaro che sono femmine, più facile, probabilmente con dei figliastri maschi sarebbe stato un po' più laborioso. Voi continuate a chiamarli figliastri? Beh, li chiamiamo figliastri con ironia, sì. Adesso i miei figliastri sono tutti contenti perché io ho pubblicato questo libro e allora un po' si vantano di questa cosa, però è chiaro che deve essere sempre fatto con ironia perché non è un bel nome neanche questo. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme, segno che le matrigne si sono comportate bene, vero Alberto? Meno molto male. Siamo promosse. Aspetta, abbiamo ancora due minuti. Adesso io andrei a sentire un altro piccolo estratto del libro, che è Matrigne, di Lilia Bonomi, e poi da questo prendiamo lo spunto per alcuni consigli. A questo punto mi verrebbe proprio voglia di stabilire un bel diritto, un diritto sui generis che non si può rivendicare, ma di cui la matrigna ne ha una voglia che non ne può più. Il diritto di coccolarli, questi figli non suoi, di tenerli in braccio, di sentirseli abbandonati vicino, un po' addormentati. Non solo di poterli abbracciare per un momento e poi di lasciarli subito andare. Lei, che non li ha portati tutti quei mesi dentro di sé, non riesce a saziarsi di stare a contatto con loro. Il diritto di accarezzarli senza temere di dare fastidio. Che diritto infantile. Come si sente sciocca la matrigna quando solo ci pensa. Eppure, se solo lei potesse, se li porterebbe addosso come una squaw, ascoltando il respiro, soffiando nei sogni per dar loro fantasie colorate e serene. Insomma, una matrigna che vuole diventare un mamma, anche se altro dalla mamma. E allora io vorrei chiudere un po' questa nostra chiacchierata su questo ruolo così difficile di una donna che... Mamma mia, con un consiglio. Allora, chiederei a Rossella, sicuramente ne abbiamo parlato, grandi difficoltà iniziali, ma che poi proseguono nel corso di questo rapporto, per una donna che sta iniziando a diventare matrigna. Ma guarda, leggevo un libro di Isabella Allende, La somma dei giorni, lei è matrigna oltre che madre, e lei a un certo punto dice ci vogliono 8 anni. Perché una matrigna si senta finalmente a suo agio nella famiglia allargata. Quindi il consiglio, ed è vero, io confermo, cioè ho smesso di piangere chiusa in bagno poco tempo fa, pochi anni fa, quando ho fondato il club. Per cui pazienza, cioè resistere. E non aspettarsi di trovare tutto facile subito, perché non lo sarà mai. Lilia, non abbiamo parlato del compagno della matrigna. Anche lui può essere sicuramente d'aiuto o d'intralcio. Allora, diciamo che dovrebbe essere d'aiuto il compagno. Dipende molto appunto dalla persona che si è accanto e di come lui si sente nei confronti dei suoi figli, di quanto ha sofferto la separazione. Se perché... si sente in colpa oppure esatto, se ha metabolizzato questa. Esatto, ma se tu dovessi dare, come ha fatto Rossella alle matrigne, un consiglio, un'indicazione all'uomo che accompagna una matrigna? Ecco, l'uomo deve aver fiducia nella donna che ha scelto, che potrà essere una buona matrigna per i suoi figli. Allora, Alberto, hai uno spunto da aggiungere, una riflessione da suggerire ai nostri amici all'ascolto? Guarda, per me il tema è nuovo, ho preso appunti, credo che alle persone che si trovano nella funzione, nel ruolo, nella posizione di matrigna, la cosa che forse serve di più poi è parlare insieme, per cui rimando proprio al sito www.clubdelematrigne.it e agli incontri periodici che il club fa con le persone, con le donne che vivono questa situazione, la possibilità di approfondire il discorso. E naturalmente se avete bisogno di informazioni, consigli, volete scambiarvi un parere, esserebenessere@radio24.it, scriveteci e magari torneremo con le nostre matrigne ad affrontare il tema. Intanto salutiamo le nostre matrigne, si sono comportate non da matrigne. Grazie. Grazie, buona grazie giornata. A voi. A voi, grazie. E buon lavoro. Buongiorno. E prima di passare al secondo argomento di oggi andiamo al nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola Il libro per i genitori sul bullismo. Per ricevere questo libro a casa dovete essere naturalmente il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it con il titolo del libro, i recapiti e, mi raccomando, il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Ed ora entriamo nell'ultimo spazio della nostra trasmissione. Cosa vuol dire crescere in periferia? E l'adolescenza in periferia vive molti più rischi di quella del piccolo centro di provincia oppure del centro città? È un tema questo che abbiamo toccato varie volte. Questa casa non è un albergo, ma che ci è stato riproposto da questa mail. Mio figlio è entrato quest'anno nella scuola superiore. È il weekend? Si sta rivelando un vero problema per lui e per noi. Non è un discotecaro e ama molto il cinema e il teatro, la vita all'aria aperta. Noi però viviamo nella periferia di una grande città del sud Italia. E lasciatemelo dire, da noi non c'è proprio nulla. Una sala cinematografica parrocchiale è stata chiusa per sempre 2 anni fa. Fino allo scorso anno l'oratorio era il luogo di aggregazione, ma quest'anno non più. Mancano gruppi, spazi, centri di aggregazione. Manca un progetto sul tempo libero di questi adolescenti, che passano i sabati e le domeniche seduti su una panchina con le cuffie dell'iPod in testa. Io soffro a vedere questo nulla che, secondo me, rischia di essere riempito con esperienze pericolose. Perché nelle periferie diventare grandi significa essere penalizzati così tanto? E cosa posso proporre a mio figlio per riempire di esperienze significative la sua voglia di crescere in fretta? Una lettera piena di dubbi e interrogativi alla quale vogliamo cercare di dare una risposta. Alberto, Ne abbiamo parlato più volte, sicuramente la periferia è un luogo dove crescere sembra più difficile. Sì, e tra l'altro la crisi avviene proprio nel passaggio da preadolescenza ad adolescenza, quando vuoi andare ad esplorare il mondo e chiaramente hai bisogno di un mondo intorno a te che ti sappia offrire luoghi dove poter crescere in sicurezza facendo esperienze che ti fanno bene. E in linea con noi abbiamo il dottor Antonio Bernardi, presidente della Fondazione Vodafone. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno a voi. Grazie. Presidente, noi l'abbiamo chiamata perché l'adolescenza di periferia è diventato uno degli obiettivi prioritari della vostra fondazione. Con l'esperienza che abbiamo maturato nei primi 5 anni di attività della Fondazione Vodafone, abbiamo avuto da parte delle organizzazioni che lavorano sul territorio, onlus, parrocchie, associazioni come l'ARCI, varie segnalazioni dal nord al sud di questo profondo disagio giovanile. E abbiamo cerchiamo di indirizzare le nostre risorse per tentare di collaborare con altri soggetti, organismi per dare una risposta. Abbiamo fatto anche una ricerca affidata all'Istituto di Ricerche Sociali insieme alla Fondazione Umanamente, Fondazione delle Assicurazioni Allianz, per cercare di delineare un progetto. Questo studio ci ha offerto alcuni casi spunti esemplari che cerchiamo di percorrere a Torino, a Palermo. Insomma, in sostanza, poi noi cerchiamo di intervenire, ci siamo proposti di intervenire in quelle situazioni di periferia dove i problemi si presentano ancora più difficili, per l'incrocio tra l'abbandono scolastico, i fenomeni di bullismo, i fenomeni dell'immigrazione, dove la vita delle famiglie dei ragazzi si fa molto difficile. Ad esempio, noi di recente abbiamo inaugurato a Napoli, nel quartiere Scampia, sì, insieme alla Fondazione Cannavaro Ferrara, appoggiando l'impegno di questi due grandi giocatori che sono anche un po' idoli per i ragazzi, abbiamo in quel quartiere finanziato la costruzione di un campo da calcio, coinvolgendo la scuola, l'ARCI, in sostanza per cercare di creare un centro di aggregazione, offrire a quei ragazzi una possibilità di vita associativa diversa da quella che hanno normalmente in un quartiere. Presidente, quindi voi fornite, basandovi proprio su delle forze già presenti sul territorio, certo, mi sembra che questo sia assolutamente importante sottolinearlo, delle alternative ai ragazzi. Ma Alberto Pellai voleva intervenire. Alberto, guarda, il problema grande di chi aiuta gli adolescenti con progetti educativi è che sa che sia al centro come in periferia i ragazzi hanno bisogno di 3 cose: sentirsi protagonisti, poter coltivare una passione, avere luoghi, spazi ed esperienze dove possono lasciare un segno, e quindi progettare aggregazione, amicizia, educazione in periferia deve fornire ai ragazzi la possibilità di realizzare questi 3 obiettivi educativi. E da oggi alle 13:30 qui su Radio 24 partirà una nuova trasmissione intitolata Periferie, proprio in collaborazione con Fondazione Vodafone. Qui in studio con me Alessandra Scaglione, caporedattore dei programmi. Alessandra, ciao, vuoi anticiparci? Sì, ciao Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Ma è molto semplice, noi abbiamo pensato, la prima volta che ne abbiamo parlato con la Fondazione Vodafone, che sarebbe stato interessante e speriamo anche utile raccontare in un programma che durerà per 5 settimane, in 5 puntate, ogni sabato alle 13:30, raccontare un pochino come si vive in alcuni luoghi del nostro paese e farlo in presa diretta, cioè facendo parlare le persone che vivono dentro queste situazioni difficili, i ragazzi che vivono in queste situazioni e che spesso, anche essendo molto giovani, hanno delle lunghe storie da raccontare, storie familiari, storie personali, storie di disagio, e che stanno cercando comunque di trovare un'alternativa. E ci è sembrato soprattutto interessante andare a raccontare nella maniera più semplice possibile come alcune iniziative, grandi o piccole, che fanno parte del mondo dell'impegno sociale, che fanno parte del mondo del volontariato, soprattutto quando l'intervento pubblico latita, i contesti sono complicati, possono riuscire a fare la differenza senza cambiare il mondo, ma magari cambiando il finale di alcune storie personali. Quindi questo abbiamo fatto e questo manderemo in onda ogni sabato appunto dalle 13.30 in poi e speriamo che sia un lavoro utile oltre che interessante. Secondo me sarà molto utile. Io ringrazio il presidente della Fondazione Vodafone, il dottor Antonio Bernardi, che è stato con noi. Grazie presidente, buona giornata. Grazie a voi e buon successo per il vostro impegno. Grazie, lo prendiamo come un augurio. Buona giornata ad Alessandra, ad Alberto Pellai. Appuntamento al prossimo sabato. Intanto buona giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.